Le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Pensioni si cambia, il governo incontra le parti sociali per illustrare le novità. Aumenta il divario a nord-sud, i meridionali continuano ad emigrare al nord, in 10 anni 700.000 persone. Napolitano dice lo Stato deve fare di più. Verso una moratoria dei debiti delle imprese con le banche, accordo di massima fra esecutivo, Confindustria e ABI. Rientrata in Italia la salma del Parà ucciso in Afghanistan, a domani i funerali. A Napoli in manette, quattro funzionari della sovrintendenza per i beni architettonici truccavano gli appalti. Più persone in vacanza quest'estate, ma per meno giorni, lo dice il rapporto Federalberghi. Tour de France tappa interlocutoria, ma domani inizia la sfida alle Alpi. Nocentini sempre in maglia gialla. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco e dalla redazione. In primo piano in questa edizione del GR Extra Large, la questione delle pensioni. Ieri, come vi abbiamo del resto già raccontato, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a due provvedimenti che sono destinati a cambiare la previdenza. Uno riguarda solo le donne che lavorano nel settore pubblico e l'altro tutti i lavoratori. Oggi il governo sta presentando queste novità, che di fatto sono emendamenti al decreto legge anticrisi, alle parti sociali. Allora sentiamo che cosa sta succedendo in diretta da Palazzo Chigi. Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, il ministro dell'economia Giulio Tremonti spiega a Confindustria e sindacati il perché delle nuove norme sulla previdenza. L'aumento dell'età pensionabile per le donne è stato deciso non per fare cassa ma per il bene del paese, e non si tratta di una riforma ma dello sviluppo di riforme già esistenti, un meccanismo che dà garanzia e certezza sulle pensioni. Si garantisce, dice Tremonti, l'esistente. Il governo cerca di placare quindi le critiche al provvedimento, che per Guglielmo Epifani, CGL, sembra più un'imposizione e non va fatto in Consiglio dei Ministri nel decreto anticrisi. Per Tremonti la riforma sarà fatta sull'andamento demografico e sulle aspettative di vita. Dal 2015 si verificherà se l'aspettativa di vita è salita o scesa sull'andamento dei 5 anni precedenti, e nella prima verifica del 2015 l'aumento dell'età non andrà comunque oltre i 3 mesi. Presenti qui a Palazzo Chigi i ministri, appunto, Tremonti, Sacconi e Brunetta, mentre per la Confindustria il vicepresidente Alberto Tom Bombassei, per CGL Piccinini, CIS Petriccioli e Will Proietti. E per il momento qui da Palazzo Chigi è tutto, voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Delle novità sulle pensioni parleremo anche più tardi, dopo le 13.15, con un esperto del settore, proprio per capire che cosa cambierà, da quando e chi sarà direttamente interessato. Rimanendo in argomenti in qualche modo affini, una notizia di questa mattina: sono in arrivo per 900.000 contribuenti i rimborsi del fisco riguardo le dichiarazioni dei redditi che sono state presentate fino al 2007. Complessivamente l'Agenzia delle Entrate restituirà 600 milioni di euro. E questa mattina a Roma è stato presentato il rapporto Svimez. La Svimez, lo ricordiamo, è l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, e le notizie sullo stato di salute dell'economia del Sud purtroppo non sono buone, anzi diciamo che vanno peggio del previsto. Cresce l'emigrazione, la disoccupazione sconfina nello scoraggiamento, la crisi colpisce più duro del previsto. Nel rapporto Svimez 2009 le buone notizie per il Mezzogiorno d'Italia sono davvero poche. Innanzitutto l'emigrazione. Tra 1997 e 2008 circa 700.000 persone hanno abbandonato il Sud, 122.000 nel solo ultimo anno. Nel 2008 sono cresciuti anche gli emigrati pendolari, cioè quelli che non cambiano residenza ma lavorano al centro-nord. Sono 173.000, 23.000 in più del 2007. Molti di loro sono laureati o diplomati pronti a scambiare una maggiore rischiosità con opportunità di lavoro adeguate al titolo di studio. Poi c'è il capitolo disoccupazione. Cresce meno che al nord, ma solo perché si allarga la zona grigia dello scoraggiamento. E con la crisi l'occupazione ha subito un crollo, come spiega il direttore Svimez Riccardo Padovani. Dal secondo trimestre del 2008 il sud ha proceduto perdendo decine di migliaia di occupati al mese, fino ad arrivare nell'ultima fase a 124.000 nel primo trimestre del 2009. Il nord ha iniziato la propria flessione soltanto all'inizio 2009. Negli ultimi mesi il PIL dell'industria meridionale è calato del 3,8%. Per di più al sud la percentuale delle imprese che denuncia problemi per l'accesso al credito è stata, tra 2004 e 2006, quasi tripla rispetto al nord. Insomma, il paese è sempre più spaccato in due. Deve crescere nelle istituzioni, così come nella società, la coscienza che il divario tra nord e sud deve essere corretto, ha scritto in un messaggio il presidente della Repubblica Napolitano. Secondo il direttore Svimez Padovani, serve anche un'inversione di rotta. Sostanzialmente con una riforma seria delle politiche specifiche per il Sud, perché si sono dimostrate poco efficienti. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. A proposito di crisi e di come risolvere questa crisi, questa mattina ne sta parlando anche il terzo settore. Allora sentiamo quali sono le proposte del terzo settore dal presidente Andrea Olivero. L'ha intervistato Valentina Furlanetto. Certamente abbiamo avuto un'apertura di confronto e anche alcune risposte. Quali sono i nodi sul tavolo? La ridefinizione delle regole che riguardano la modalità con la quale il terzo settore interagisce con il mondo pubblico. In realtà oggi il terzo settore è stato utilizzato dalle amministrazioni locali soprattutto come gestore di servizi. Noi invece chiediamo di essere un vero interlocutore che possa anche agire nella prospettiva di andare a determinare le scelte politiche proprio in virtù anche della nostra prossimità, della nostra capacità di intercettare i bisogni delle persone. E poi è importante che si affrontino i temi relativi alle estreme povertà. Il nostro mondo rappresenta una larga fetta appunto dei poverissimi che i nostri servizi incrociano, che le nostre organizzazioni vedono quotidianamente. Ebbene, noi abbiamo bisogno di una politica di contrasto alla povertà più efficace, soprattutto in questo momento di grande crisi, una politica che non sia soltanto di bonus o di voucher, ma che sia di accompagnamento, di presa in carico di tutti i bisogni della persona. Andiamo ora alla cronaca, perché oggi ci sono state diverse operazioni di polizia e carabinieri in varie regioni d'Italia. Andiamo con ordine. Innanzitutto a Napoli, dove sono stati arrestati 4 funzionari della Sovrintendenza per i beni architettonici perché coinvolti in appalti truccati, appalti che venivano di fatto sempre aggiudicati allo stesso cartello di imprese. Associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta e falso ideologico. Con queste accuse il soprintendente ai beni architettonici di Caserta e Benevento, Enrico Guglielmo, suo nipote, un collaboratore della soprintendenza di Napoli e un imprenditore sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza. Nei confronti di altre 7 persone sono stati emessi provvedimenti interdittivi della libera professione. Sono tutti coinvolti in un vasto giro di corruzione per l'aggiudicazione di appalti pubblici per 21 milioni di euro. Tutti gli arrestati hanno ottenuto i domiciliari. Enrico Guglielmo all'epoca dei fatti era soprintendente a Napoli. Secondo quanto è emerso dalle indagini, tra il 2003 e il 2007 numerosi appalti indetti dalla soprintendenza sarebbero stati aggiudicati alle stesse imprese dietro il versamento di tangenti. Tra i lavori al centro dell'inchiesta, quelli per il teatrino di corte di Palazzo Reale e il castello di Baia. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E sempre a Napoli, nella notte sono state arrestate 56 persone affiliate al clan camorristico dei Sarno, attivo in particolar modo nel quartiere Ponticelli e in alcune zone della provincia. Sono tutte persone accusate di associazione per delinquere di stampo mafioso e a vario titolo di estorsioni, traffico e spaccio di stupefacenti. I carabinieri in particolar modo hanno scoperto un vastissimo giro di estorsioni compiuti a tappeto ai danni di tutti i commercianti e gli imprenditori della zona. Erano veramente in pochi ad aver denunciato ed essersi sottratti appunto a questo giro. Da Napoli invece andiamo alla Calabria, anche in questo caso arresti di persone che hanno a che fare con la criminalità organizzata. Scoperti gli autori di 10 omicidi commessi in Calabria nell'Alto Ionio Cosentino tra il 1998 e il 2002. 20 persone sono state arrestate dai carabinieri del ROS in un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro il clan degli Zingari che opera nella zona di Cassano allo Ionio. In particolare è stato scoperto l'autore dell'omicidio di un sedicenne, Antonio Acquesta, che venne ucciso nel 2000. Intanto sempre in Calabria, ma in provincia di Reggio Calabria, è sempre più chiara la pista che ieri sera ha portato all'omicidio, fra l'altro, di un quindicenne, Francesco Amato di Rosarno. Alla base del duplice omicidio un episodio banale, un furto. Filippo Velti, GR24, Sole 24 Ore, Cosenza. Ora andiamo all'Aquila, dove oggi c'è nuovamente il premier Silvio Berlusconi. Allora, Marcello Lianni, cosa sta facendo il nostro Presidente del Consiglio? sì, come dicevate voi, buongiorno innanzitutto. Il Premier nella sua 17ª visita in questo capoluogo ferito, escludendo il G8, ha appena terminato la sua visita nei cantieri in cui si stanno realizzando le case antisismiche. Una visita che servirà anche per illustrare che tipo di interventi che il governo intende adottare e per spiegare quali risorse ci sono per il recupero delle case classificate in categoria E, quelle per intenderci che a causa del terremoto hanno subito maggiori danni strutturali. E stando all'ultimo rapporto della Protezione Civile, si tratta del 25,4% degli edifici ispezionati, vale a dire 15.600 strutture, scusatemi. E proprio per seguire da vicino i lavori nei cantieri, Berlusconi ha annunciato l'intenzione di prendere una casa in affitto all'Aquila nel periodo di agosto. Ma sul tappeto c'è anche la questione tasse. Ieri, in relazione al maxi emendamento proposto sul decreto Tremonti, il vicepresidente del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis, ha invitato il governatore Chiodi a sollecitare il Premier ad assumere ogni iniziativa affinché venga scongiurata l'iniqua decisione della restituzione da gennaio dell'IRPEF. E lo stesso sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, che nel pomeriggio dovrebbe incontrare Berlusconi, ha annunciato appunto di chiedergli la revoca sul pagamento delle imposte e per gli anni che seguiranno la ricostruzione. Siamo terremotati, ha detto Cialente, alla normalità torneremo dopo la ricostruzione. Come in Umbria e Marche, i soldi per le imposte sospese andranno ratizzati in 10 anni. Gli aquilani non possono restituire 1 miliardo di euro in 24 mesi. Prevista nel pomeriggio una conferenza stampa alla presenza del capo della Protezione Civile Guido Bertolaso dopo una riunione operativa. Grazie, allora grazie Marcello Iani, sì. In collegamento con l'Aquila. Noi invece ora ci spostiamo al Tour de France. Pier Augusto Stagi, ci senti? Benissimo. E allora, secondo te, insomma, c'è speranza che il nostro Rinaldo Nocentini mantenga la maglia gialla anche per la tappa di oggi? Ben più di una speranza, certo, ci manca la certezza che questa ce la dovrà dare lui questa sera. La tappa non è difficilissima, è piena di piccole salitelle, nervose, però la sua squadra e lui stesso saranno sicuramente concentrati per questo obiettivo. Si parte da Tonnerre, si arriva a Vittel dopo 211 km, tassa, mossa, ondulata, e riuscirà nell'obiettivo, quella di questa sera sarà la sesta maglia, e eguaglierà niente di meno che Vito Favaro, Italo Ziglioli, Mario Cipollini e, udite udite, Marco Pantani. Ecco, però domani arriva invece la grande sfida, prima l'abbiamo definita così, quella delle Alpi. Sì, ecco, domani arrivano le montagne e Nocentini trema. Lui anzi in realtà in cuor suo questa mattina diceva: ma no, io potrei anche fare un miracolo e potrei portare la maglia anche domani sera. Certo che quella di domani sera è una tappa vera, una tappa di 200 km da Vittel a Colmar, e ci sono delle salite vere di prima e seconda categoria. Bene, sentiremo. Si comincia a fare sul serio. Sul serio, giusto. Pier Augusto, naturalmente ci risentiremo con te anche domani e poi in serata per sapere com'è andata la tappa. Le 13:17, GR Extra Large. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato delle pensioni. Il governo sta incontrando in questi minuti a Palazzo Chigi le parti sociali per illustrare le novità che sono state approvate ieri in Consiglio dei Ministri sotto forma di emendamenti al decreto legge anticrisi. In sostanza si tratta dell'innalzamento dell'età pensionistica per le donne che lavorano nella pubblica amministrazione e poi un meccanismo per innalzare per tutti, uomini e donne, l'età pensionabile legata all'età, alla vita media delle persone in base ai parametri Istat. Abbiamo poi parlato del rapporto Svimez, secondo il quale sta aumentando sempre di più il divario nord-sud. In particolar modo dal sud si continua ad emigrare al nord Italia. In 10 anni circa 700.000 persone provenienti soprattutto da Puglia, Sicilia e Campania. Napolitano ha fatto un appello e ha detto che lo Stato in questo senso deve fare di più. E poi ancora per la cronaca, a Napoli sono finite in manette 4 funzionari della sovrintendenza per i beni architettonici perché truccavano gli appalti. Fra di loro c'è anche il sovrintendente ai beni sempre architettonici di Caserta e Benevento, Enrico Guglielmo. Ora invece parliamo del Parà che è stato ucciso in Afghanistan. Sono arrivati nella notte a Ciampino i 3 militari feriti appunto in Afghanistan, mentre in mattinata è giunto anche l'aereo militare con a bordo la salma del giovane appunto rimasto ucciso. Una cerimonia breve e carica di dolore ha accolto a Ciampino la salma del primo caporal maggiore Alessandro Di Lisio, 25 anni. Il C-130 è atterrato intorno alle 9. La bara, avvolta nel tricolore, è stata trasportata a spalla fuori dall'aereo da 6 paracadutisti dello stesso reggimento di Alessandro, l'ottavo genio guastatori di Legnago. Le autorità hanno reso omaggio al feretro, il presidente della Camera Gianfranco Fini, il ministro della Difesa Ignazio La Russa, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, diversi parlamentari e i vertici militari. Su un cuscino sorretto da alcuni parà c'erano il basco amaranto e le decorazioni del loro collega. Così questa mattina è stato reso onore a Di Lisio e al suo sacrificio in Afghanistan. Dopo l'autopsia, la bara sarà trasferita all'ospedale del Celio e successivamente a Oratino, in provincia di Campobasso, paese originario del ragazzo. Domani alle 16.30 nel Duomo di Campobasso i funerali solenni. Poco dopo la mezzanotte sono arrivati a Ciampino i 3 militari feriti, dei quali il primo caporal maggiore Simone Careddu è il più grave. Ha alcune vertebre fratturate e rischia la paralisi. Meno gravi il tenente Giacomo Donato Bruno e il caporal maggiore scelto Andrea Cammarata. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. C'è un'ultima ora che riguarda la strage nella stazione di Viareggio. Purtroppo sono saliti a 28 le vittime. Questa mattina, infatti, all'ospedale di Parma è morto Mauro Iacopini, 60 anni. L'uomo era stato ricoverato con profonde ustioni su gran parte del corpo. Iacopini era il padre di Elena, la donna di 32 anni, che era morta proprio qualche giorno fa. Il Parlamento europeo questa mattina ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Natalia Estemirova, l'attivista russa per i diritti dell'uomo rapita e uccisa in Cecenia. Scusate, abbiamo un problema, non riusciamo a mandare in onda il servizio. Ecco, adesso siamo in grado, prego la regia di mandarlo in onda. Oggi è il giorno della condanna e del ricordo. Natalia Estemirova è stata rapita ieri in Cecenia e trovata morta in Inguscezia, le due repubbliche del Caucaso legate da un destino che nega la pace. A Grozny Natalia rappresentava Memorial, l'organizzazione che si batte per la difesa dei diritti umani e che in Cecenia denunciava gli abusi, i rapimenti compiuti dalle bande del presidente Ramzan Kadyrov contro i presunti ribelli e le loro famiglie. Casa Bianca e Unione Europea chiedono al governo russo di far luce su questo ennesimo omicidio che lega per sempre Natalia Estemirova ad Anna Politkovskaya, di cui Natalia era interprete. Kadyrov, l'uomo forte del Caucaso, ha giurato che troverà i colpevoli, per i quali, ha detto, il carcere a vita sarà troppo poco. Purtroppo però, secondo i colleghi di Natalia Memorial, è proprio Kadyrov il responsabile dell'omicidio. Natalia sarà ricordata oggi a Mosca con una manifestazione nel pomeriggio. Inviare un rappresentante del governo sarebbe un'ottima occasione per Medvedev per dimostrare che forse con lui al potere questa volta sarà diversa. Antonella Scott, GR24, Sole 24 Ore. Ora andiamo in Iran, dove secondo alcuni mass media si prospetta una soluzione politica dopo i disordini delle scorse settimane, disordini che erano seguiti alle elezioni del 12 giugno. Crisi iraniana verso una soluzione di compromesso è quanto sostengono oggi alcuni media arabi alla vigilia dell'atteso discorso dell'Ayatollah Ali Akbar Rafsanjani, che domani pronuncerà il sermone della preghiera di venerdì. Secondo fonti definite ufficiali, il compromesso prevede la formazione di un largo fronte d'opposizione guidato dal candidato moderato Mousavi e appoggiato dai due ex presidenti Rafsanjani e Khatami. In cambio, il fronte, che offrirebbe così un ombrello politico all'opposizione, dovrà riconoscere la legittimità del governo di Ahmadinejad. Da parte sua, il governo, pressato dagli Ayatollah di Qom, dovrebbe rilasciare tutte le persone arrestate durante le proteste e aprire un'inchiesta indipendente per punire i responsabili delle repressioni. Intanto, dopo la preghiera di domani, sarebbe stato autorizzato un imponente corteo guidato dallo stesso Rafsanjani, affiancato da Mousavi e dall'ex presidente Khatami. Adif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Prima abbiamo parlato del Parlamento europeo che ha osservato un minuto di silenzio in ricordo dell'attivista russa per i diritti dell'uomo che è stata appunto rapita e uccisa in Cecenia. Beh, oggi a Strasburgo si chiude la prima sessione plenaria del nuovo Parlamento europeo che è stato eletto il 7 giugno. Fra le curiosità di questa prima seduta anche quella dell'intervento del primo eurodeputato sordomuto. Si tratta dell'ungherese Adam Loza e ieri è intervenuto in aula parlando con il linguaggio dei segni per difendere l'uso delle lingue minoritarie in Europa. Tra l'altro oggi su molti quotidiani anche italiani ci sono appunto le foto di questo deputato ungherese. E il nostro inviato a Strasburgo, Sergio Nave, è andato un po' a caccia dei deputati italiani, fra i quali naturalmente ci sono volti nuovi ma anche esponenti della vecchia guardia. Primi giorni di scuola, ieri e martedì, per la nutrita pattuglia, 72 in tutto degli eurodeputati italiani. Per la maggior parte di loro l'apertura delle porte dell'emiciclo di Strasburgo ha rappresentato una prima assoluta. C'è chi, come l'ex ministro della giustizia Clemente Mastella, ora PDL, intercettato in ascensore da un cronista, inveisce appena messo piede in Alsazia contro la, a suo dire, bassa diaria appannaggio degli eurodeputati. 290 euro, sta miseria, questi non sanno cosa si prende al Parlamento italiano, urla. Altri invece sono emozionati, soprattutto dall'assedio di interviste dei giornalisti. È il caso di Deborah Serracchiani del PD, Miss 144.000 preferenze, famosa per aver sconfitto nella sua circoscrizione anche il premier Berlusconi. Beh, emozionante credo a dir poco, anche perché la struttura è imponente, per cui insomma obiettivamente fa un certo effetto. Poi la cosa più bella in assoluto è che tocchi con mano l'Europa. Seduto pochi metri fuori dall'emiciclo incontriamo l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini del PDL, tra i pochi alla seconda legislatura. Si dice sconcertato della abbandono degli aeroporti milanesi da parte di Alitalia e chiede più concorrenza negli slot, sfidando così il governo. Poi gli chiediamo, alla luce dei suoi anni in Europa, cosa preferisca fare, il sindaco o l'eurodeputato. Il governo è un luogo, una circostanza, un ruolo nel quale la tensione e la responsabilità sommergono. Il Parlamento è una situazione nella quale la relazione, l'approfondimento, la meditazione sui dossier, il rapporto con le lobby, quindi gli stimoli intellettuali non mancano. L'ex mezzobusto del TG1 David Sassoli, capogruppo del PD, fatica ancora a interpretare il ruolo dell'intervistato. Sto imparando a stare dall'altra parte rispetto ai miei colleghi e questo mi fa un po' impressione. È un mese ormai che io lavoro al Parlamento, però certamente venire intervistato dai giornalisti mi fa impressione perché devo assumere un linguaggio diverso. E la quasi ex cantante Iva Zanicchi non sembra invece avere ancora le idee chiare sui propri futuri progetti politici. Ma i progetti sono tanti, le speranze anche, la volontà e la voglia anche. Ma soprattutto dopo la pioggia di critiche per la sua ultima partecipazione a Sanremo in contemporanea con la settimana di lavoro dell'Europarlamento, fa a Radio 24 la promessa definitiva. Vabbè, questa è una sciocchezza. Beh, dai. C'era un assessore. Ma è anche giusto perché io sono abbastanza conosciuta, per cui è anche giusto che mi si faccia le pulci, come si suol dire. Ero a Sanremo, ma Sanremo dura 3 giorni. E l'anno prossimo ci andrà a Sanremo se coincide? No, io l'ho già detto. Nei meandri del Caprice de Dieu, così come è stato soprannominato l'Europarlamento alsaziano a causa della sua somiglianza a una forma di formaggio, incontriamo anche Daniel Commendì, già leader della protesta studentesca del 68 parigino, ora uomo di punta della politica ecologista europea, il quale non fa sconti agli accordi sul clima raggiunti al G8 dell'Aquila. Ma il problema di questo compromesso è facile dire che deve essere in 2050, ma non è nessuno segno come arrivare lì da oggi, e questo è il problema del compromesso del G8. Sergio Nava, GR24 e Sole 24 Ore, Strasburgo. L'avete sentito in questa corrispondenza del nostro collega Clemente Mastella, sembra, secondo quanto hanno riportato i giornali, arrabbiato per la diaria considerata insufficiente. Lo ricordiamo, quest'anno effettivamente gli europarlamentari guadagneranno meno rispetto al passato, certo non possiamo dire poco. In qualunque caso, Mastella replica, e allora sentiamolo al microfono di Alessandro Milan, il conduttore di 24 Mattino. L'unico riferimento, abbiamo detto, ma tra tutti i parlamentari, altri che stavano là con me, che la diaria era piccola qua rispetto al dato del Parlamento nazionale, non a eccepire nulla. Quello è, stop. Tutto sto problema, sto casino, solo con me succede, sempre Repubblica. È incredibile. Cioè, dire lei non ha detto è una miseria, ma chi l'ha detto una miseria? Questo lo dice il giornalista di Repubblica, mi sa chi ha detto la miseria? Quale miseria? Dice svendolava gli assistenti, io non porto mai nulla, non ce l'ho ancora gli assistenti, non ce l'ho. Al di là degli assistenti non si è lamentato, insomma, questo lei dice, non mi sono lamentato. Gli altri discutevano con me sulla differenza tra Parlamento nazionale e quello qua e l'Europa, su quella era la differenza, non sulla miseria. Ma non era mica una cosa che dire la miseria, 208 euro, che mica sono la miseria, immagini. Queste dunque le parole di Clemente Mastella. Lo shuttle Endeavour, cambiamo così decisamente argomento, poco dopo il decollo è stato colpito oggi da diverse volte dai frammenti di materiale isolante che si sono staccati dal serbatoio esterno. Gli esperti della NASA adesso dovranno stabilire sia le cause dell'incidente, ma soprattutto se effettivamente ci siano stati dei danni e che conseguenze potrebbero avere per questa missione. E a proposito di spazio, ormai lo sappiamo, il 20 luglio si celebreranno i 40 anni dallo sbarco sulla Luna. Tante le iniziative in tutto il mondo, naturalmente anche in tante città italiane. Andiamo a sentire quali saranno le iniziative romane, perché sono state appunto presentate questa mattina nella capitale. Ha seguito la presentazione Savino Gallo. Allora, che cosa potranno fare i romani per celebrare l'allunaggio? Sì, buongiorno. Davvero molto ricco il programma che il Comune di Roma ha stilato per festeggiare i 40 anni della Luna. Oltre 10, infatti, gli eventi culturali e scientifici che fino al 29 luglio si terranno in diversi punti della capitale. Si partirà stasera con Luna Bambina, proiezioni e letture per ragazzi a Villa Borghese e con Stelle e Pianeti nel cielo di Roma, un'area telescopica a disposizione di tutti allestita sulla terrazza del Pincio. E ancora Urania, rassegna culturale in programma al Teatro India e dal 21 per Luna, serie di concerti, conferenze e laboratori che si terranno al Planetario. Ma il vero clou è previsto per il 20 luglio, proprio nel giorno in cui, 40 anni fa, Armstrong poggiava il suo piede sul suolo lunare. Quella sera a Piazza del Popolo si svolgerà la Notte della Luna. In programma un talk show con alcuni testimoni diretti di quell'evento, l'anteprima del concerto per astronauta a cui ha collaborato il maestro Ennio Morricone e infine l'esibizione del musicista newyorkese Moby. E da Roma è tutto. Sono le 13:35 minuti, GR Extra Large. Queste sono le principali notizie della giornata. Pensioni, si cambia, il governo sta incontrando a Palazzo Chigi le parti sociali per illustrare le novità che sono state approvate ieri dal Consiglio dei Ministri. Aumenta il divario nord-sud, i meridionali continuano ad emigrare al nord, in 10 anni 700.000 persone. Napolitano dice lo Stato deve fare di più. Verso una moratoria dei debiti delle imprese con le banche, c'è un'intesa di massima fra l'esecutivo, Confindustria e l'ABI. Ne parleremo fra pochissimo. Era entrata in Italia la salma del Parà ucciso in Afghanistan. Domani ci saranno i funerali. E purtroppo sono salite a 28 le vittime della strage della stazione di Viareggio. Stamattina è morto Mauro Iacopini, 60 anni. Era stato ricoverato con ustioni profonde su gran parte del corpo. A Napoli, in manette, 4 funzionari della sovrintendenza per i beni architettonici truccavano gli appalti. Più persone in vacanza quest'estate, ma per meno giorni, lo dice il rapporto Federalberghi. Allora, l'avevamo già annunciato nei nostri titoli, una moratoria per i debiti che le imprese hanno nei confronti delle banche, una richiesta fatta in questo periodo di crisi da Confindustria e sulla quale oggi è stata raggiunta un'intesa di massima con il governo e l'ABI, che è l'associazione delle banche. Paola Cavadi, allora tu hai seguito questo incontro, che cosa è stato deciso di fare? Sì, buongiorno Alessandra. Quello di oggi è stato un primo incontro interlocutorio tra governo, banche e imprese. La prossima settimana una nuova riunione definirà meglio i contenuti della moratoria dei crediti alle aziende. L'idea sulla quale si è registrato un ampio consenso è quella di sospendere i pagamenti in scadenza alle imprese più virtuose per un periodo di un anno. In cambio il governo si impegna a garantire alle banche sgravi fiscali sotto forma di una maggiore deducibilità delle perdite. Si tratterebbe dunque di una misura che farebbe contente sia le imprese, che recupererebbero fiato di fronte alla crisi, sia le banche, che da tempo ormai chiedono un trattamento fiscale equiparato a quello di altri paesi europei. La parola d'ordine è fare in fretta, perché la crisi morde e bisogna essere certi di riagganciare la ripresa. Il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, ha parlato di un incontro molto utile, sentiamola. Noi come Confindustria spingiamo perché si possa arrivare a un accordo entro la fine, diciamo prima delle vacanze, comunque nel giro di poche settimane. Il tempo è essenziale, noi vogliamo dare delle risposte concrete ai nostri imprenditori per avere uno strumento che gli permetta di non avere asfissia finanziaria e di poter continuare a vivere e a continuare a fare impresa anche in un momento di crisi così complicato. Si è parlato oggi anche di aiuti per la ricapitalizzazione delle imprese. Tra le ipotesi allo studio c'è anche quella di una leva fiscale o di un fondo di investimento che finanzi direttamente le aziende. Da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Paola Cavadi. Parliamo ora di donne e lavoro. La presenza femminile ai vertici della pubblica amministrazione rimane ancora molto bassa. Tuttavia ci sono esempi di donne che ce l'hanno fatta, come racconta Paola Stringa, che ha raccolto 7 storie nel libro Donne, Talento e Tecnologia, un libro che è stato presentato oggi a Roma da Futuro al Femminile e Forum PA. Dedicarsi alla famiglia e avere successo nel lavoro è possibile. Le donne che ce la fanno hanno un grande alleato, la tecnologia, fondamentale nella conciliazione perché regala flessibilità e permette a una donna di organizzarsi meglio. La tecnologia è il fil rouge che unisce le 7 storie raccolte nel libro Donne, Talento e Tecnologia, che mette in risalto le best practices della pubblica amministrazione italiana. Dai grandi ai piccoli enti, in molti organizzano corsi di formazione o progetti mirati per facilitare la vita lavorativa al mondo femminile. Talento e competenza però rimangono sempre le armi vincenti per la carriera di una donna in un paese, l'Italia, con un tasso di occupazione femminile pari al 47,2%, ancora distante dal 60% stabilito dalla Commissione europea. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Siamo alla quarta puntata del nostro approfondimento sull'impatto che avranno le novità della riforma del processo civile che sono entrate in vigore il 4 luglio scorso, impatto che avranno sulle diverse categorie del mondo della giustizia che appunto sono coinvolte. La riforma, lo ricordiamo, prevede tra le altre cose più spazio ai giudici di pace, avranno più compiti, fra l'altro i giudici di pace sono in sciopero appunto in questi giorni, non tanto perché contestano il fatto di avere più lavoro da fare, ma perché vogliono avere più tutele per il fatto che il loro lavoro è considerato precario. Le novità che vengono introdotte prevedono anche sanzioni alle parti che in sostanza puntano solo a far perdere tempo al sistema giudiziario. Poi saranno anche previste testimonianze in forma scritta, se richiesto da entrambe le parti. La possibilità, anzi l'obbligo di redigere da parte del giudice il calendario di un processo e poi ci saranno sentenze sintetiche e decisioni recuperabili anche online. Queste alcune delle novità di cui vi stiamo parlando in questi giorni. E oggi diamo la parola agli avvocati che offrono la propria cooperazione, insomma la propria collaborazione, ma chiedono la riforma della professione. Maurizio Detilla, alla guida dell'OUA, l'organismo unitario dell'avvocatura, e quindi l'organismo che rappresenta di rappresentanza politica della categoria forense, spiega le sue richieste al microfono di Anna Marino. Io credo che questa normativa possa agevolare la celerità del processo complessivamente. Come OUA abbiamo sottoscritto insieme all'Associazione Nazionale Magistrati e a tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori, dai dirigenti agli altri collaboratori della giustizia, un patto per la giustizia, perché noi riteniamo che si possono cambiare tutte le regole processuali se non c'è a fronte di questo una buona, una forte e efficiente organizzazione giudiziaria, la riforma non funziona assolutamente, il giudice non potrà fissare alcun calendario, i termini ridotti fissati per gli avvocati poi saranno allungati dai tempi dei giudici che non saranno in grado, per mancanza di organizzazione, di seguire i processi. E quindi noi viene prima l'organizzazione, però la buona organizzazione richiede forti risorse economiche che non ci sono, un completamento degli organici dei giudici e dei dipendenti e questo completamento non c'è e infine abbiamo messo nel patto della giustizia anche il varo della riforma dell'ordinamento della professione di avvocato, troppi avvocati, nella riforma è prevista una prima forte selezione degli iscritti agli albi. Per quanto riguarda i tempi della giustizia, secondo lei può essere un aiuto questa riforma? Sì, manca l'organizzazione, siamo al punto di prima, è questa la decima riforma che si fa negli ultimi anni del processo civile, sempre per accelerare. Vi avevamo annunciato, anzi anche più di una volta, l'intervento di un esperto per parlare di questa riforma delle pensioni. Non siamo insomma impazziti improvvisamente, non è che non vogliamo proporlo, ma non siamo in grado di collegarci telefonicamente in questo momento con il nostro esperto, quindi se non saremo in grado di farlo oggi, naturalmente ve lo proporremo domani, sempre in extra large. Parliamo ora di cinema. Saranno 18 i film in lizza per il Pardo d'Oro al 62esimo Festival di Locarno, in programma nella cittadina svizzera dal 5 al 15 agosto. Fra questi ci sono 14 prime mondiali, un'edizione che presta particolare attenzione ai temi dell'immigrazione, dell'identità e del rapporto dell'uomo con la natura. 15 paesi partecipanti, nessuna però pellicola italiana in concorso, anche se non mancano i riconoscimenti al nostro cinema. Fra i premi annunciati c'è l'Excellence Award, che sarà assegnato all'attore Tony Servillo. Micaela Nasca ha incontrato questa mattina il direttore artistico del festival, Frederick Mer, e gli ha chiesto insomma quali saranno le caratteristiche di questa edizione di Locarno. C'è un enorme evento organizzato in collaborazione col Museo Nazionale del Cinema di Torino, che è questo evento manga, ovvero una retrospettiva del cinema d'animazione giapponese, che contemplerà un'enorme retrospettiva, una mostra che si porterà per 4 mesi a Torino. Ospiti di grande rilievo come Isao Takahata, film in prima mondiale nelle varie selezioni ufficiali, quindi veramente il Giappone sarà molto presente a Locarno. L'altro evento maggiore, credo, sarà questo omaggio che dedichiamo a un uomo conosciuto per il teatro, che è Pippo Del Bono. Soprattutto in Italia, ovviamente, perché è anche una star internazionale di teatro, come uomo di teatro, come regista, ma che si conosce meno è il cineasta, e questo quello che vogliamo far scoprire è il regista Pippo Del Bono, con il suo tra l'altro ultimo film La paura, che sarà presentato in prima internazionale, che è un documento sull'Italia contemporanea appassionante e un po' drammatico. Nella natura stessa di questo festival c'è la possibilità di attori e registi di farsi conoscere al grande pubblico. C'è qualche personaggio in particolare tra le storie che saranno presentate quest'anno su cui lei si sentirebbe di scommettere? Ma chiaramente c'è una scommessa, se, che è Pippo Del Bono, che finalmente sarà non solo uomo di teatro ma anche uomo di cinema dopo il Festival di Locarno e il suo passaggio qua. Scommetterei anche su tanti nuovi talenti italiani, per esempio il valdostano Joseph Peacquin o Massimo D'Anolfi e parenti che erano già venuti con Promessi Sposi a Locarno e che tornano qua con grandi speranze. Insomma, metterei tanto accento sulla documentaristica italiana, che è da sempre molto appassionante e che noi vogliamo difendere a Locarno, con ben 10 documentari presentati nell'ambito del festival. Lei quest'anno lascerà la direzione artistica del festival. Quale impronta ha voluto dare al concorso nei suoi 4 anni di direzione? Penso che per me è stato importante rimanere veramente sull'idea della scoperta, ovvero presentare Locarno, il cinema che sta cercando nuove vie di racconto. Quello non implica non avere un cinema magari un pochino più classico nella forma, ma che almeno a livello tematico, a livello del suo contenuto, del suo modo di raccontare la storia, abbia qualcosa di nuovo. E credo che questo l'abbiamo fatto durante questi 4 anni e spero che il festival continuerà in questa via. Ancora GR Extra Large, lo dicevamo prima, parliamo adesso di vacanze, tiriamo un po' il fiato. Un italiano su 2 andrà in vacanza quest'estate, sembra un numero insomma superiore rispetto all'anno scorso, però ci andrà per meno giorni, facendo così crollare del 15% il giro d'affari nazionale. Questi sono dati diffusi questa mattina da Federalberghi, colpa naturalmente della recessione mondiale che vede diminuire anche i turisti stranieri in visita nel nostro paese. Come ha detto lo stesso presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, intervistato da Adriana Fracchia. Purtroppo è tutto l'anno che abbiamo questa tendenza, nel senso che l'italiano ha una minore capacità di spesa, quindi riduce le vacanze sia in termini di durata, perché da 15 giorni del 2007 siamo passati ai 10 giorni del 2009, e sia soprattutto nella spesa per la vacanza. Purtroppo questi due fattori uniti insieme portano a un calo del 15% del giro d'affari per quanto riguarda il turismo italiano in Italia. Quanti sono gli italiani che andranno in vacanza? Questo viceversa è un dato positivo, perché l'italiano comunque dimostra di avere voglia di andare in vacanza. Abbiamo un incremento dell'1,5% rispetto all'anno precedente di italiani che si muoveranno nel quadrimestre estivo, quindi un italiano su 2, e c'è ancora un 5% di indecisi. Mentre coloro che rimarranno a casa? Chi rimarrà a casa saranno 21 milioni di italiani, e i motivi saranno dovuti nella stragrande maggioranza a motivi economici. economici, quindi sicuramente meno soldi nelle tasche degli italiani portano a rinunciare alla vacanza. Le mete preferite? Il mare ovviamente si conferma la meta preferita, con due regioni che spiccano rispetto alle altre, che sono l'Emilia Romagna e la Puglia, seguite poi da tutte le altre regioni italiane dove abbiamo il mare. Per quanto riguarda gli italiani che andranno all'estero, le mete preferite sono le mete più vicine, cioè le capitali europee sono l'Egitto, il Mar Rosso, cioè le mete che costano poco, perché il leitmotiv principale di queste vacanze purtroppo sono meno soldi nelle tasche degli italiani. E quali sono i mesi più gettonati? Quest'anno ci sarà una grande concentrazione di vacanzieri nel mese di agosto, perché quest'anno purtroppo, visto il calo del fatturato dell'industria italiana, le industrie stesse tendono a chiudere durante il mese di agosto. E sono migliaia ogni giorno gli italiani che per le loro ferie appunto scelgono di spostarsi in aereo. Quasi tutti prima o poi incappano nei classici inconvenienti da aeroporto. Allora sentiamo come difendersi. Estate, tempo di viaggi e di vacanze. Per chi vola anche tempo di attese, ritardi e cambi di programma. Per fortuna, ma non tutti lo sanno, esiste una carta dei diritti del passeggero. Primo Mastrantoni, segretario dell'ADUC, Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, spiega che tutte le ha il viaggiatore in caso di ritardo. Se il ritardo è superiore alle 5 ore si ha diritto a richiedere il rimborso del biglietto e si ha diritto a una assistenza. Questa assistenza consiste nella somministrazione di pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, la sistemazione anche in albergo e al trasporto aeroporto albergo aeroporto, e a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. Per ritardi di entità inferiore invece si ha diritto alla sola assistenza. Ma ancora più seccanti sono i casi di cancellazione del volo. Se ciò accade per cause non eccezionali, il viaggiatore ha due soluzioni. Può scegliere la cosiddetta riprotezione, cioè vola su un altro aereo, e ha comunque diritto all'assistenza e alla compensazione pecuniaria, l'entità della quale va da 250 a 600 euro a seconda della distanza chilometrica del viaggio. Ma può anche rinunciare al volo. In questo caso ottiene assistenza, rimborso del biglietto non utilizzato e compensazione pecuniaria, sempre secondo gli stessi parametri già visti. Se la cancellazione è dovuta invece a fatti eccezionali, può scegliere tra la riprotezione e l'assistenza, oppure, se non è più intenzionato a partire, rimborso del tagliando e assistenza. Il terzo caso più frequente è quello del negato imbarco, il cosiddetto overbooking. Specialmente durante le vacanze c'è una cattiva abitudine delle compagnie aeree di vendere più biglietti di quei dei posti che ci sono sull'aereo. Ora, siccome non si può volare sulle ali, se il passeggero rinuncia volontariamente all'imbarco, ovviamente può avere la riprotezione su voli successivi o il rimborso del biglietto che non viene usato e comunque benefici che deve concordare con la compagnia aerea. Se non rinuncia volontariamente, il passeggero segue lo stesso iter dei casi di cancellazione. Opta per la riprotezione, assistenza e compensazione pecuniaria oppure decide di non partire e in questo caso può usufruire anche del rimborso del biglietto non utilizzato. Tutti pronti alle vacanze dunque, ma con un occhio anche a quelli che sono i nostri diritti. Fabio Pisano, GR24, Il Sole 24 Ore. Ormai ufficiale, Massimiliano Rosolino sarà il portabandiera dell'Italia nella cerimonia di apertura dei mondiali di nuoto. E noi parliamo ancora dei mondiali con la nostra marcia di avvicinamento. Lo ricordiamo, i mondiali inizieranno domani a Roma e ne parlerà tra l'altro anche fra poco a Tempo di Sport. Roma 2009, mondiali di nuoto. 5 secondi alla fine di questo supplementare. Marco D'Altrui, Carlo Campagna chiama i suoi compagni. Ferretti, poi è Gandolfi, è Barcellona 1992, l'Italia della pallanuoto maschile è campione olimpica e due anni dopo, proprio nella piscina di Roma, i ragazzi guidati da Ratko Rudic conquisteranno anche il titolo mondiale. E poi trionfi delle ragazze, oro iridato sempre a Roma nel 94 e olimpico ad Atene 2004. Ricordi che quasi impallidiscono di fronte alla realtà del 7 bello e del 7 rosa. A Pechino 2008 nono posto per gli uomini, sesto per le ragazze. Per gli azzurri nel girone con Stati Uniti, Romania e Macedonia, Roma 2009 è il primo passo di un nuovo progetto, come spiega il CT Sandro Campagna. Possiamo ritornare ai fasti di un tempo, ma bisogna lavorare molto. Il mondiale è il primo step, è la prima verifica. Sono fiducioso perché i ragazzi si stanno lavorando molto bene, con grande entusiasmo e motivazione. Sicuramente stelle come Benedek, Casas, Vujasinovic, giocatori conosciuti anche in Italia perché hanno militato nel campionato, direi anche fortunatamente, tra virgolette per noi, non ci saranno più perché hanno deciso di non giocare con le proprie nazionali, per cui mancheranno queste stelle. Ci saranno dei nuovi talenti, come i fratelli Varga dell'Ungheria, come Sukno della Croazia, come Slokovic, Janovic del Montenegro, e Molina e Perrone della Spagna, e mi auguro che ci sia anche qualche italiano che quest'anno giocherà con maggiore responsabilità, soprattutto i giovani, sperando che si mettano in evidenza nell'interesse della squadra. A moltiplicare gli avversari poi la disgregazione politica dell'Est Europa. Pensate che nel 2005, quando il campionato del mondo a Montreal fu vinto dalla Serbia Montenegro, i 13 giocatori erano 7 della Serbia e 6 del Montenegro, per cui hanno soltanto fatto, hanno immesso a queste due squadre altri 3-4 giocatori che neanche tanto forti per fare altre due squadre competitive da primo posto. La Croazia esiste già da qualche anno ed è una potenza. Stiamo attenti anche alla Macedonia, che raccatta giocatori serbi e croati, quindi sarà sempre una squadra competitiva. Anche il Sette Rosa, chiuso il ciclo d'oro, vive un momento di transizione. Il CT Roberto Fiori. Purtroppo gli anni sono passati, ne sono passati tanti per alcune, e quindi era giusto iniziare a proporre anche delle giovani atlete che però sono sempre supportate da alcune di quelle che tante gioie ci hanno regalato, da Di Mario a Bosurgi, Casanova stesso è una ragazza, è una donna importante di questa squadra, e ci sono alcune ragazze che si affacciano per la prima volta a questa ribalta e stanno lavorando sodo per prepararsi nel migliore dei modi. Insomma, sognare una medaglia sembra un azzardo, ma la piscina del Foro Italico, si sa, fa miracoli. Rapidissimo riepilogo delle notizie principali della giornata. Pensioni si cambia, il governo sta incontrando le parti sociali a Palazzo Chigi per illustrare le novità, e poco fa il ministro del welfare Sacconi ha escluso l'aumento dell'età pensionabile nel settore privato. Aumenta invece il divario nord-sud, i meridionali continuano ad emigrare al nord, quanto emerge dal rapporto Svimez, rientrata in Italia la salma del Parà ucciso in Afghanistan. Sono salite purtroppo a 28 le vittime della strage della stazione di Viareggio. E a Napoli manette 4 funzionari della sovrintendenza per i beni architettonici perché truccavano gli appalti. È tutto per questa edizione, curata e condotta da Alessandra Tedesco, al coordinamento Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. Ci sentiamo domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.